ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Boumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. Il giorno dopo già guardavo il mondo in tutt'altro modo. Quei soldi che mi avevano aperto le porte non solo del paradiso, ma anche della stima. Mi ricordai dopo che la signora Paradiso in portineria, quando mi aveva visto buttare in aria 2 biglietti da 100, s'era lanciata sulla mia mano e voleva baciarmela. Io pensavo che volesse vedere l'ora precisa sull'orologio da polso che ancora non avevo. Tuttavia quel bacio non era un bacio a me, al piccolo del Praga d'Oro, ma era un bacio a quei 2 biglietti e in generale a quei soldi che avevo io. Io, che ho ancora 1000 corone nascoste nel letto e che posso avere soldi... Non quanti ne voglio, ma quanti ogni giorno ne guadagno alla stazione con la vendita dei Würstel bollenti. E così la mattina fui mandato col cesto a prendere i fiori e mentre stavo tornando vidi come un pensionato strisciava a 4 zampe cercando qualche monetina rotolata via. Effettivamente su quella strada mi resi conto che come clienti fissi sedevano da noi anche il giardiniere e il mastro salumiere e il macellaio e il proprietario della latteria, che da noi si ritrovavano in realtà quelli che ci fornivano di pane e carne. Il capo, dopo aver guardato la ghiacciaia, quante volte aveva detto «Va immediatamente dal macellaio e riferiscigli di portarsi via immediatamente quel vitello magro. Adesso, subito». E infatti prima di sera il vitello non c'era più e il mastro macellaio sedeva come se non fosse successo niente. Quel pensionato però probabilmente ci vedeva male. Zampettava nella polvere col palmo della mano. Dico «E che cerca, babbino, che cerca?». E lui disse che aveva perduto 20 centesimi. E io aspettai che fosse passata la gente, e presi una manciata di spiccioli e la buttai in aria, e subito afferrai i manici del cesto e sprofondai nei garofani e continuai il cammino. E quando prima dell'angolo mi voltai, vidi come strisciavano per terra alcuni passanti. Tutti avevano l'impressione che quelle monete fossero cadute a loro, e l'uno ammoniva l'altro di restituirgli quei soldi, e in ginocchio litigavano, e soffiavano, e si graffiavano agli occhi come gatti con gli stivali. E io mi misi a ridere, capendo subito che cosa muove la gente, e in che cosa crede la gente, e che cosa è capace di fare per un paio di monete. Quando ebbi portato i fiori e vidi molta gente davanti al nostro ristorante, corsi in una stanza per i clienti e mi sporsi e una manciata di spiccioli la buttai in modo da farli cadere non proprio vicino alla gente, ma un paio di metri più in là. E corsi giù a scorciare i garofani mettendo sempre 2 ramoscelli di asparagina e 2 garofani in un vasetto. E intanto dalla finestra guardavo come la gente strisciava 4 zampe e raccoglieva i soldi, le mie monete. E intanto litigavano. Uno aveva visto gli stessi 20 centesimi prima di quello che li aveva tirati su e la la la. E quella notte, e poi tutte le notti seguenti, sognai e sognavo. E poi dopo, anche di giorno, quando non c'era niente da fare, io dovevo far finta di far qualcosa, mentre pulivo i boccali e guardavo contro luce, mi mettevo il vetro davanti agli occhi e, attraverso, vedevo dall'altra parte la piazza e la colonna della peste frantumate. E il cielo e le nubi in cielo, anche durante il giorno, e sognavo di volare sopra cittadine e città, e villaggi e cittadelle, di avere una tasca infinitamente grande, e di raccogliere manciate piene di monete, e di buttarle sul selciato. Le spargevo sempre come un seminatore di grano, sempre però alle spalle dei passanti o di quelli che erano lì per caso, manciate piene di spiccioli. E vedo come quasi nessuno resiste, ma raccolgono quei pezzi da 20, come l'uno prende a testate l'altro, e come litigano. Io però già sto volando oltre e mi fa bene. Anche dormendo deglutivo beato nel sogno, quando dalla tasca prendevo quelle manciate e le buttavo alle spalle dei gruppetti sempre diversi, e i soldi tintinnavano striduli e ruzzolavano, e io avevo quella capacità di volare come un'ape dentro vagoni, treni e tram, e di punto in bianco facevo trillare una manciata di nichelini sul pavimento, e tutti immediatamente si chinavano e si urtavano per raccogliere spiccioli dei quali ognuno pensa e finge che siano caduti a lui e a lui solo. Thank you. Quel sognare mi dava animo. Ero piccolino e così dovevo portare un colletto alto di caucciù. Avevo il collo piccolo e corto e quel colletto mi segava non soltanto il collo, ma anche sotto il mento. E così, perché non mi facesse male, così tenevo sempre la testa alta. Avevo imparato anche a guardare a quello stesso modo, perché non potevo abbassare la testa senza dolore. Mi chinavo quasi con tutto il busto e come tenevo la testa all'indietro mi si socchiudevano le palpebre e io guardavo il mondo in qualche modo come se lo disprezzassi, lo schernissi, lo sdegnassi. Sicché anche i clienti pensavano che fossi pretenzioso. E sempre così, avevo anche imparato a stare in piedi e a camminare. Le piante dei piedi le avevo sempre roventi come ferri da stiro. Mi meravigliavo di non prender fuoco, che non mi bruciassero le scarpe, tanto mi scottavano le piante. A volte ero così disperato che mi versavo seltz freddo nelle scarpe. In particolare alla stazione, ma questo aiutava solo per un momento, e io ero sempre sull'orlo del desiderio di togliermi le scarpe e correre in frac dritto al ruscello e immergere lì nell'acqua coi miei piedi. E così versavo ancora e ancora seltz nelle scarpe, a volte anche un pezzettino di gelato, e così capivo perché i metri e i camerieri al lavoro portano le scarpe più vecchie, le più scalcagnate, quelle che trovate nella spazzatura, perché solo con quelle scarpe si può resistere e stare in piedi e camminare tutto il giorno. E in generale anche le cameriere, ai piani e le cassiere, tutti soffrivamo per quei piedi. Inoltre, quando la sera mi toglievo le scarpe, avevo le gambe piene di polvere fino al ginocchio, come se avessi gironzolato tutto il giorno non su parquet e tappeti, bensì nella polvere di carbone. Era l'altra faccia del mio frac, il rovescio della medaglia per tutti i camerieri e i piccoli maitre in tutto il mondo, camicia bianca inamidata e colletto di caucciù scintillante di bianco e piedi che anneriscono lentamente come in una qualche terribile malattia dove la gente incomincia a morire dei piedi. E però ogni settimana facevo risparmi per una diversa e sempre nuova signorina, la seconda signorina della mia vita. Quella fu poi una bionda. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. Well, it was good enough for my grandpa. It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. That's good enough for me. Quando entrai e mi domandarono che cosa desideravo, dissi che volevo cenare e subito aggiunsi, però in una chambre separée. E quando mi domandarono con chi, indicai la bionda. E questa volta ero innamorato di quella coi capelli biondi. Anzi, fu ancora più bello della prima volta, anche se quella prima volta era stata indimenticabile. E così continuavo a assaggiare soltanto quel potere dei soldi. Ordinavo champagne, ma prima lo assaggiavo. La signorina doveva bere l'originale con me, non permettevo più che a me versassero vino e alla signorina limonata. E mentre disteso nudo guardavo il soffitto e la biondina distesa accanto a me guardava il soffitto anche lei, di punto in bianco, mi alzai e sfilai da un vaso una peonia e strappai i petali e rivestii torno torno la pancia della signorina con alcune peonie. Era così bello che ne fui stupito. E la signorina si sollevò a guardare anche lei la propria pancia, ma le peonie cadevano e io la sospinsi teneramente indietro perché restasse distesa. E da un gancio tolsi uno specchio e misi quello specchio in modo che la signorina vedesse quanto era bella la sua pancia rivestita di petali di peoni. Dissi, sarà bello, ogni volta che verrò qui, con i fiori che ci saranno ti rivestirò il pancino. Lei disse che questo non le era ancora mai successo, un simile omaggio alla sua bellezza, e mi disse che per quei fiori si era innamorata di me. Io dissi come sarà bello quando a Natale strapperò ramoscelli di abete e le rivestirò il pancino con quei ramoscelli. E lei disse, sarà ancor più bello quando mi rivestirà la pancia di vischio, ma la cosa migliore sarebbe stata, e ci doveva pensare lei, che sopra il canapè pendesse dal soffitto uno specchio, perché vedessimo noi stessi distesi, e principalmente quanto lei è bella quando è nuda con una corona intorno alla pelliccetta, corona che cambierà secondo le stagioni, e i fiori che sono tipici di ogni singolo mese. Come sarà bello quando la rivestirò di margherite e di occhi della Madonnina e di crisantemi e di pratoline e di foglie colorate. E io mi alzai e mi abbracciai ed ero alto. Andando via le detti 200 corone, ma lei me le restituì e io le posai sul tavolo uscendo e avevo la sensazione di essere alto 1,80 m. Anche la signora Paradiso porse un biglietto da 100 nello sportello sul quale si era curvata guardandomi attraverso gli occhiali. E uscì nella notte, e il cielo nelle stradine buie era pieno di stelle, ma io non vedevo altro che i ranuncoli e i campanellini e i bucaneve e le primule torno torno alla pancia della signorina bionda. Più camminavo, più ero stupefatto. Da dove mi era saltata fuori quell'idea di rivestire, come in un vassoio di sunca, con l'insalata russa, rivestire allo stesso modo la graziosa pancia di una donna con una collinetta di peli nel mezzo. E secondo come conoscevo i fiori, continuavo e vestivo la biondina nuda di 5 foglie, di petali di tulipani e giaggioli. E mi proposi di meditare a fondo su tutto questo, perché avrei avuto diletto per tutto l'anno. Anche con i soldi si può comprare non soltanto una bella fanciulla, ma con i soldi si può anche comprare la poesia. Il mattino del giorno dopo, mentre stavamo dritti sul tappeto e il capo passava e guardava se avevamo la camicia pulita e tutti i bottoni, e quando disse buongiorno, signore e signori, io guardavo la sguattera e la credenziera, guardavo i loro grembiuli bianchi in modo tale che la sguattera mi tirò per un orecchio, tanto penetrante era il mio sguardo, e trovai che nessuna di loro si sarebbe lasciata fasciare il ventre e i peluzzi né con margherite né con peonie, men che mai come un cosciotto di capriolo con ramoscelli di abete o con vischio. E così pulivo i boccali, guardavo contro luce le grandi finestre dietro le quali camminavano qua e là persone tagliate in due, e io continuavo coi fiori estivi e li prendevo uno a uno dei cestini e rivestivo di fiori e fiorellini, o anche solo di petali, la pancia della bella biondina dei Paradiso. Lei era distesa sulla schiena e divaricava anche le gambe, e io la rivestivo tutta intera anche intorno alle cosce, e se quei fiori scivolavano via, li attaccavo con la gomma arabica, oppure li fissavo leggermente con un chiodino o una puntina, e così pulivo i boccali in modo esemplare. Nessuno lo voleva fare, e io sciacquavo il vetrame nell'acqua, accostavo il boccale all'occhio e guardavo se era pulito, ma attraverso quel boccale pensavo a tutto quel che avrei fatto dei Paradiso, e così ero arrivato fino agli ultimi fiori dei giardini, dei prati e del bosco, e mi rattristai. Che avrei fatto l'inverno? E poi resi felice, perché d'inverno i fiori sono ancora più belli. Comprerò ciclamini e magnolie, e magari farò un salto a Praga per le orchidee, o addirittura mi trasferirò definitivamente a Praga. Anche lì c'è lavoro nei ristoranti, e lì avrò fiori per tutto l'inverno. E poi ormai si avvicinava a mezzogiorno, e io distribuivo i piatti e i tovaglioli, e la birra e lo sciroppo rosso e quello al limone. E quando fu mezzogiorno e bisognava sbrigarsi al massimo, ecco che si aprì la porta e dapprima entrò e poi per chiudere si voltò quella bella biondina dei Paradiso. E si sedette e aprì la borsetta, ne tirò fuori una busta e si guardò intorno. E io mi accovacciai e mi allacciai in tutta fretta una scarpa e il cuore mi batteva sul ginocchio. E viene il maître e dice, va subito in sala, ma io mi limitavo ad annuire ed era come se il ginocchio si fosse spostato, scambiandosi il posto col cuore, tanto mi batteva. Ma poi mi feci animo e mi misi ben dritto, alzai la testa quanto più potevo e gettai un tovagliolo sulla manica e domandai alla signorina che cosa desiderava. Lei disse che voleva vedere me e che voleva uno sciroppo al lampone. E io vidi che portava il vestito estivo, un vestito pieno di peoni, tutta chiusa torno torno in aiuole di peoni. E io mi infiammai e arrossii anch'io come una peonia. Questa poi non me l'aspettavo. Erano spariti i miei soldi, erano sparite le mie migliaia di corone. Quello che vedevo ora era tutto e solo gratis. E così andai a prendere il vassoio con gli sciroppi al lampone. E quando li portai, allora quella biondina, così come teneva la busta sulla tovaglia, così piano piano ne erano sbucati fuori quei miei 2 biglietti da 100, e mi guardò in modo tale che sobbalzai con tutti gli sciroppi, e il primo si rovesciò, si inclinò lentamente e le si versò nel grembo. E già era arrivato il maître, e poi accorse anche il capo e si scusarono. Il capo mi prese per un orecchio e me lo torse. E questo non doveva farlo, perché la biondina gridò per tutto il ristorante: «Come si permette?» E il capo: «Le ha innaffiato, ha rovinato il vestito, dovrò pagare io». «E lei di che si impiccia? Io da lei non voglio niente. Che svergogna qui questa persona!» E il capo con dolcezza: «Le ha innaffiato il vestito». Tutti avevano smesso di mangiare. E lei disse: «Non sono affari suoi, e io glielo proibisco». «E poi guardi», e prese uno sciroppo, e dall'alto se lo versò in testa sui capelli, e poi un altro sciroppo, ed era tutta intera succo di lamponi e bollicine di selz, e così si versò l'ultimo sciroppo di lamponi dentro la scollatura e disse: «Il conto». Mademoiselle Fanchonna, de parte de Robbière, brade giù Herzog zu. Andava via, seguita dal profumo dei lamponi, e uscì in quel vestito di seta e pieno di peoni. Ora già le svolazzavano intorno le api, e il capo prese la busta dal tavolo e disse: «Seguila, si è dimenticata questo». E corsi fuori, e lei stava ferma nella piazza. E come un chiosco col torrone a una fiera era piena di vespe e api, e lei non si difendeva, e quelle raccoglievano da lei quel succo zuccherino del quale era tutta bagnata, come se avesse una seconda pelle addosso, una leggera patina, come quando si spalma la politura o la lacca marina. E io le guardavo quel vestito, e le porgevo quei due biglietti, e lei me li restituì, e disse che il giorno prima li avevo dimenticati da lei, e aggiunse che la sera dovevo venire dai Paradiso, che aveva comprato un bel mazzo di papaveri di campo, e io vedevo come al sole lo sciroppo al lampone le si era seccato dentro i capelli, come le erano diventati rigidi, si erano induriti come diventa duro un pennello se non lo mettete nell'acqua ragia, come la gomma arabica se si rovescia, come la vernice. Vedevo che il vestito le si era incollato al corpo per quello sciroppo dolce, che avrebbe dovuto strapparselo di dosso come un manifesto vecchio, come una vecchia carta da parati dal muro. Ma tutto questo per me era poco. Tremendo era per me che mi aveva parlato in quel modo, che non aveva paura di me, che di me sapeva più di quel che sapevano nel nostro ristorante, che di me sapeva probabilmente più di quel che di me sapevo io stesso. Quella sera il capo mi disse che al pian terreno avrebbe avuto bisogno della mia camera per la lavanderia e che dovevo portare le mie cose al primo piano. Dico: «Domani, no?» Ma il capo mi guardò e io seppi che lui sapeva, che dovevo trasferirmi subito. E mi ricordò nuovamente che alle 11 dovevo andare a dormire, che rispondeva di me come davanti ai miei genitori, così davanti alla società, che un piccolo, per poter lavorare tutto il giorno, deve dormire tutta la notte. Per me i più cari clienti del locale erano sempre i commessi viaggiatori, non tutti i piazzisti. Perché fra gli agenti ce n'erano di quelli che commerciavano in articoli che non servivano a niente o che non tiravano, rappresentanti di acqua calda. Più di tutti mi piaceva un rappresentante grasso che quando venne la prima volta, allora io corsi dritto a chiamare il capo, tanto che il capo si spaventò e dice: «Che c'è?» Ma io sbottai: «Capo, abbiamo un pezzo grosso». E così andò a vedere, e davvero una persona così grassa non l'avevamo ancora avuta. Il capo mi elogiò e scelse per lui una camera in cui poi quel commesso viaggiatore dormiva sempre, un letto speciale sotto il quale il garzone mise anche quattro ceppi e a sostegno del letto due travi, e quel rappresentante da noi si presentò proprio bene, perché aveva con sé anche una specie di assistente che portava sulle spalle una cosa pesante, sembrava quell'addetto un facchino di stazione, con cinghie portava qualcosa, una specie di macchina da scrivere pesante. E verso sera, quando quella gente cenava, lui poi cenava sempre così, prendeva il menù e lo guardava come se non riuscisse a scegliere proprio niente, e poi diceva: «Allora, tranne i polmoncini alla panna acida, portatemi tutte le pietanze, una dopo l'altra. Appena ne avrò finita una, portate la successiva, finché dirò basta». E quando ebbe mangiato, mangiava sempre 10 pranzi, poi prese un'aria trassognata e disse che avrebbe voluto qualcosa da mettere sotto i denti, e la prima volta fu netto di salame ungherese. Quando il capo glielo portò, Quella gente prese una manciata piena di monete, aprì la porta e le buttò in strada, e poi dopo aver preso un paio di fette del salame, come se si fosse nuovamente arrabbiato, prese un'altra manciata di spiccioli e li buttò in strada e si sedette quasi rabbioso, e i clienti fissi si guardavano fra loro, poi guardarono il capo, e quello non riuscì a far altro, si alzò e fece un inchino e domandò: «Ma perché getta via quegli spiccioli? Non è per offendere, signore?» E quel rappresentante disse: «Perché non potrei buttare gli spiccioli in strada, visto che lei, come proprietario di questo locale, getta via ogni giorno allo stesso modo 10 biglietti da 10? E il capo tornò al tavolo e riferì tutto ai clienti fissi, ma quelli furono presi da un'agitazione ancora maggiore, così il capo si decise e ritornò al tavolo del grassone e dice: «Non è per offendere, ma qui si tratta della mia proprietà. Lei si getta via le monete come vuole, ma che c'entra nei miei 10 biglietti da 10? E il grassone si alzò e disse: «Se permettete glielo spiego, e posso andare in cucina?» E il capo fece un inchino e con la mano gli segnalò la porta della cucina, e quando fu entrato sentì come si presentava: «Io sono rappresentante della ditta Van Berkel. Per favore, tagliatemi un etto di ungherese, sì?» E così la moglie del capo tagliò, pesò, mise su un piattino, e tutti avevano paura che fosse un qualche controllo, ma il rappresentante batté le mani. Da un angolo si alzò quell'assistente e sollevò quell'oggetto nascosto da una copertina, il quale ora sembrava una fisarmonica, se lo fosse stato. E quell'assistente entrò in cucina e poggiò quell'affare sul tavolo. La gente tolse la copertina e c'era un bel apparecchio rosso, una sega piatta, rotonda e brillante, che girava su un perno, e alla fine del perno c'erano una manovella e un manico, e poi c'era anche una manopola girevole. E quel grassone sorrideva beato a quell'apparecchio e parlava: «Allora, prego, la più grande ditta al mondo è la Chiesa Cattolica. Quella commercia in qualcosa che nessuno ha mai veduto, nessuno ha mai toccato, da che mondo è mondo nessuno ha mai incontrato, ed è, prego, ciò che viene chiamato Dio. La seconda al mondo è la ditta International. Anche quella, prego, l'avete già, è un apparecchio diffuso in tutto il mondo, e cioè la cosiddetta cassa, che se premete e schiacciate nel modo giusto i tasti tutto il giorno, a sera, invece di fare i conti con la cassa al posto vostro, fa il bilancio della giornata. E terza, viene la ditta che rappresento, la Van Berkel, che produce bilance che pesano in tutto il mondo, precisa l'equatore come al Polo Nord, e produciamo anche ogni tipo di questi apparecchi per affettare carni e salumi, e il fascino di questo apparecchio sta in questo, prego», disse e tolse la pelle, dopo aver chiesto il permesso a un pezzo di salame ungherese. La pelle la posò sulla bilancia, e ora con una mano girava la manovella, e con l'altra premeva contro quella lama girevole il salame, e sul piattino di raccolta si ammonticchiava il salame tagliato. Cresceva come se quel salame l'avesse affettato intero, benché il salame non si fosse accorciato di molto. E la gente smise di girare e domandò: «Quanto pensate che ne abbia tagliato di questo salame?» E il capo disse 1,5 metri, e il maître disse 1,10 metri. «E tu, piccolino?» domandò a me. E io dissi 80 grammi, e il capo mi prese per l'orecchio, me lo torse e si scusò con la gente. La mamma, mentre lo teneva al seno, l'ha lasciato cadere di testa sulle mattonelle, ma quel rappresentante mi dette una carezza e mi fece un bel sorriso e disse: «Questo ragazzo ci è andato più vicino». Buttò sulla bilancia quel salame affettato e la bilancia indicava 70 grammi. Tutti ci guardammo e poi ci avvicinammo a quell'apparecchietto miracoloso e fu chiaro a tutti che quell'apparecchio portava guadagni. E quando ci allontanammo, la gente prese una manciata piena di monete e le buttò nella cassa del carbone e batté le mani, e col suo facchino portò un altro pacco. Sotto il coperchio sembrava la campana di vetro sotto la quale mia nonna teneva la Vergine Maria, e quando tolse la copertura, sotto c'era una bilancia. Era come nelle farmacie quella bilancia, e la lancetta era fina fina e indicava fino a 1 chilo solo, e la gente disse: «Allora prego, questa bilancia è così precisa che se ci respiro sopra, lei indica quanto pesa il mio respiro». E respirò davvero, e la bilancia si mosse. E ora prese dalla bilancia nostra quel salame ungherese tagliato e lo buttò su quell'altra, e la bilancia indicava che di quel salame ce n'erano precisamente 60 grammi e 75. Ed era chiaro che la nostra bilancia derubava il capo di 25 centesimi. E la gente fece i conti sul tavolo, quindi fanno, e poi fece un segno sotto il conto, e disse: Se in una settimana vendete 10 chili di ungherese, allora questa bilancia vi farà risparmiare 100 volte 25 centesimi, cioè quasi mezzo salame. E col pugno chiuso, poggiò i gomiti sul tavolo e ripiegò una gamba così che con la punta del piede toccava terra mentre il tacco stava in alto e sorrideva vittorioso quel rappresentante. Il capo disse: «Andate via tutti, dobbiamo trattare. Io voglio che mi lasciate qui tutto questo, così come sta qui lo compro». «Questo, prego, è il mio campionario», disse il rappresentante e indicò il facchino. «Prego, abbiamo portato in giro tutto questo una settimana per i rifugi e quasi in ogni rifugio che si rispetti abbiamo venduto sia l'apparecchietto per tagliare il salame che la bilancia. Ambedue queste macchinette io le definisco risparmiatrici di tasse. Così è». La gente mi voleva forse bene. In qualche modo gli ricordavo la sua giovinezza, quando mi vedeva in faccia una carezza e un bel sorriso e gli venivano le lacrime. A volte si faceva portare l'acqua minerale in camera. Tutte le volte quando andavo da lui in camera era già in pigiama, stava steso sul tappeto e quell'enorme pancia era stesa accanto a lui come una specie di botte. E quello mi piaceva, che non si vergognava della pancia, al contrario, la portava davanti a sé. E come se fosse stata una qualche reclame, ci fendeva il mondo che gli veniva incontro. Tutte le volte mi diceva: «Siediti, figliolo», e di nuovo mi faceva un sorriso. Mi sentivo come se mi avesse carezzato non il papà, ma la mamma. Una volta mi stava raccontando: «Sai, io ho incominciato come te, anch'io molto piccolo, nella ditta Coref, Mercerie. Ah, bambino mio, ancora oggi penso a quel mio capo. Lui mi diceva sempre: un commerciante come si deve ha sempre tre cose: beni immobili, affari e magazzini. Se perdi il magazzino, hai ancora gli affari. Se perdi gli affari e il magazzino, hai almeno i beni immobili, e quelli non te li può togliere nessuno». Ma una volta mi hanno mandato a prendere dei pettini. Bei pettini di osso, 800 corone costavano quei pettini, e io li portavo nel portapacchi della bicicletta, e in due borse enormi. Tieni, prenditi un bonbon. Prendi, prendi, questo qui. E il ripieno di bisciole con la cioccolata. E mentre sto spingendo in salita con la bicicletta, quanti ne hai? E io dissi 15. E lui annuì, e prese un bonbon, e biascicava. E continuò: «E così spingo in salita quei pettini e a un certo punto mi sorpassò una contadina, anche lei in bicicletta, e in cima si fermò nel bosco e quando ci arrivai si mise a guardarmi e così da vicino che io abbassai gli occhi. Lei mi fece una carezza e disse: "Andiamo a guardare i lamponi?" E io poggiai la bici con tutti i pettini nel fossato e lei poggiò la sua bicicletta da donna sopra la mia e mi prese la mano. E subito dopo le prime fratte mi buttò giù e mi sbottonò. E prima che ne potessi rendere conto, era sopra di me e io ero sommerso dalla contadina. Così quella contadina mi prese come primo e io mi ricordai della mia bicicletta e dei miei pettini. E così corsi lì e la sua bicicletta giaceva sulla mia bici. A quei tempi le biciclette da donna avevano sulla ruota posteriore una reticella colorata, così come i cavalli avevano una reticella di maglia sulla testa e sul collo. E io tastai i pettini e c'erano, e tirai un sospiro. E la contadina, quando si accorse e vide che non riuscivo a tirar fuori un pedale della mia bicicletta da quella sua maglia, allora mi disse che quello era un segnale, che non dovevamo ancora separarci. Io però avevo paura. «Ma prendete questo bonbon qui, lo chiamano gianduiotto». E ce ne andammo con le bici in un boschetto. La contadina mi infilò di nuovo la mano nei calzoni. Beh, insomma, ero più giovane di oggi, adesso ero io a stare sopra di lei, così come poggiando le bici nella fratta lei aveva messo la sua per terra e io la mia sulla sua, e così facemmo l'amore, proprio come con le bici, e fu bello. E ricordati, figliolo, che la vita, quando riesce un poco, è bella, così bella. Ah, ma adesso va a dormire, la mattina ti devi alzare così presto, sai, figliolo. E prese una bottiglia e se la versò tutta dentro. Sentivo come l'acqua gli gorgogliava fin dentro lo stomaco, come fa l'acqua piovana da una gronda nella vasca. Quando poi si stese sul fianco, si sentì benissimo come l'acqua rifluiva per pareggiare la superficie. Vi basta? Con questo oggi finisco.